Benvenuti a tutti e tutte, grazie mille di essere qui stasera. Questo è il nostro primo evento in presenza e ci sembrava un'ottima occasione per presentare questo nuovo libro a cura di Angelo Miotto, che ringraziamo di essere qui con noi. Diciamo che la questione di Genova del G8 del 2001 è una questione piuttosto cruciale per quello che riguarda la nostra storia più o meno recente, ed è quest'anno è stato il 20° anniversario della morte di Carlo Giuliani, e diciamo che abbiamo voluto cominciare a provare a fare alcune riflessioni per cercare di uscire un po' dall'impasse dell'eredità di quelle giornate e di tutti gli avvenimenti che hanno portato alle costruzioni del G8, ma anche a tutto stato l'impeto del dopo Genova, eccetera eccetera. E abbiamo fatto un'operazione editoriale di interviste sul tema e come redazione della radio, e ci sembrava perfetto, diciamo, provare a chiudere la questione con la presentazione di questo libro. È tutto, lascio la parola a Giulia e Angelo, e grazie a tutti e tutte. Buonasera, benvenute. Questo non ho. Grazie. Benvenute, benvenuti. Sono molto emozionata di presentare, avere l'onore di presentare questo libro qua a ZAM e anche in diretta radio. E sì, come diceva giustamente Orso prima di me, come redazione di Radio ZM abbiamo fatto questo lavoro su Genova per il ventennale, per cercare di recuperare un pochettino quella che è stata quelli che sono stati i fatti di quei giorni e cosa è successo dopo. E il nostro intento era cercare di arrivare ad una passare dalla memoria di alcune singole che sono state e sono stati a Genova in quei giorni, e arrivare ad un concetto un po' più ampio, e quindi alla storia, a rifare un pochettino la storia di quel periodo e anche dei tutti, in un certo senso, riuscire a leggere quindi anche tutti gli anni successivi. Ed è per questo che abbiamo pensato di presentare qua questo libro, perché leggendolo molti aspetti hanno risuonato, come appunto il voler magari dare voce a più persone, perché in questo testo ci sono i contributi di giornalisti, avvocati, anche magistrati, persone che erano presenti a Genova, in particolar modo la sera della Diaz, e quindi anche riprodurre quella pluralità che è stata una delle gare di Genova e delle giornate del G8. E, proprio perché Angelo nel testo parla proprio di alcuni concetti un po' pilastri. Lui parla di riprendere il contesto di quei giorni e riprodurre quindi anche il messaggio. Io volevo chiedere un pochettino a lui, proprio in funzione di questi due aspetti, perché ha pensato di scrivere e chiedere anche il contributo di altre persone di scrivere questo libro su Genova, e in che modo possiamo arrivare quindi ad un concetto di storia di quel momento che attraversa anche gli anni successivi. Grazie, ben trovate tutte e tutti. Allora, grazie di questo invito e di questo posto che mi piace particolarmente tanto, devo dire, mi sento a mio agio. Allora, il libro è nato perché arrivava l'anniversario. Io lo confesso subito che gli anniversari non sono il mio forte, nel senso che non li amo particolarmente. Cioè, parlare di Genova nel 19° o nel 21° anno di ricordo a me non cambia niente. Però è vero che il 20° fa cifra tonda, e qui dell'informazione, della comunicazione sarebbe inevitabilmente accesa. Quindi da un punto di vista tattico era molto interessante andare a catturare il momento in cui c'è più attenzione per cercare di far passare dei messaggi. Questo libro è fatto con Altra Economia, e nello specifico con Massimo Acanfora, che è il mio editor, ed è diciamo, il responsabile di tutta la collana di Libertà Economia. Lo cito perché è una presenza fondamentale per il libro, perché è venuto fuori da conversazioni che abbiamo avuto laddove scrivere di Genova non doveva essere per noi scadere in alcune trappole che ci sono, che sono trappole come il reducismo, per esempio, che è una parola giusta, io credo, laddove si fa memoria. Non può essere un vincolo che ci mettiamo per commiserazione, per ricordo, semplice ricordo di dove eravamo, cosa facevamo. Questo ce lo siamo detti nei 20 anni successivi a Genova ed è bene anche ricordarcelo per i prossimi 20 o quanti ne volete. Però c'era probabilmente, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, un'esigenza diversa, e cioè dire, ok, ma questa Genova che abbiamo vissuto, come facciamo a raccontarla a chi non c'era? Ma quel chi non c'era non sono soltanto i giovani, tra virgolette, ma anche le persone distratte. Vi faccio un esempio pratico. Sono andato a fare una presentazione vicino a Erba, c'erano molte persone sui 50, 55, quindi più o meno della mia età, e ho fatto un velocissimo giro di microfono, erano 20-25 persone, per capire dove fossero loro, per esempio, il 20 luglio, o dove fossero nei giorni, diciamo, cruciali di Genova, e che tipo di informazione avessero ricevuto. E tutti molti di loro hanno detto, l'80% circa, io ero al lavoro, che è una cosa piuttosto normale, o perlomeno era normale in quei tempi, ancora di meno. Però è interessante questa cosa, perché mi ricordava mio padre quando gli chiesi a un certo punto, ma non mi hai mai parlato del periodo del rapimento Moro, per dire, no? Allora, com'è che me ne hai parlato quando ero ragazzo? Cosa facevi tu mentre Aldo Moro, mentre c'era tutto il fenomeno delle Brigate Rosse e via dicendo? Lui mi diceva, beh, ma io stavo lavorando, e quindi, per esempio, lui, come tanti, si accorse del rapimento Moro perché ci fu immediatamente uno sciopero convocato dai tre sindacati allora, e i caselli delle autostrade furono lasciati incustoditi, per cui questa cosa destò ovviamente sorpresa negli automobilisti che arrivavano, poi si capì che era per questo tipo di notizie. Noi dei bambini, allora io sono del 69, quindi avevo 9 anni, ci presero dalle aule, ci fecero uscire per andare ai giardinetti, non si capisce, nel senso, non è che fosse una minaccia di attentato di stampo terroristico esplosivo, però ci fu questo tipo di reazione, no? di abbandonare gli edifici pubblici e di portarci fuori, e questa è una cosa che è rimasta molto presente in quella della mia generazione. Allora mi sono domandato, compito 14 e 16, di che cosa si parla, di che cosa si sa di cosa è successo 20 anni fa. Per me è come se fosse ieri, cioè io ricordo nel particolare tutte le giornate prima e dopo di quel 2001, di quel luglio del 2001, però mi rendo conto, spesso anche insegnando, avevo un laboratorio di narrazione radiofonica, un master di giornalismo, avevo degli studenti che spesso, quando facevamo i giornali radio che si fanno per esercitazione, sulle notizie che magari uscivano su Genova non sapevano il contesto. Allora, il contesto, che è una parola secondo me molto importante, non riguarda, ahimè, solo Genova, G8, ma riguarda quella che io chiamo nel libro la quasi contemporaneità, nel senso che faccio fatica a definirla ancora storia, per una questione anche di parametri più o meno scientifici su quello che è storia e quello che non è storia, ma la quasi contemporaneità è quel periodo in cui molto spesso le persone più giovani non hanno più degli appigli, se non sono persone che frequentano dei posti dove c'è una discussione politica, dove c'è un recupero della memoria, un'attenzione anche ai temi del presente e della politica, no? Per cui parlare con i ragazzi più giovani di qualche cosa che ai miei tempi era molto vissuto come il pentapartito diventa una questione estremamente difficile, cioè ricordare come fossero composti i governi, ricordare quali fossero le politiche, perché nel racconto anche di che cosa era l'opposizione a quelle politiche, devi spiegare anche contro chi si andava, diventa un esercizio che sembra quasi di memoria, ma in realtà sono passati 20, 30 anni, 40 anni, non di più, che non sono così tanti alla fine. A scuola, ma questo magari io ho dei ricordi che riguardano la mia scuola, comunque sia, molto spesso i programmi scolastici non arrivano a parlare della contemporaneità, proprio perché probabilmente storia si ferma in altri periodi, ma molto spesso i ragazzi ti raccontano che si fermano poco più avanti della Seconda Guerra Mondiale o comunque sia, se arrivano agli anni 90 e a Berlusconi, per dirne uno a caso, abbiamo dei paragrafi da 10 righe, il che ovviamente ti fa un po' tremare le vene nei polsi, perché 10 righe su un periodo nefasto come quello in cui venne alla luce Forza Italia sono veramente poche. Si può capire che ci sia un problema poi dei libri di testo, perché c'è il problema del non schierarsi, che oggettivamente andrebbe anche un po' risolto, ma la questione è che mancano delle basi strutturali, che sono quelle della conoscenza di fatti generali accaduti nel tuo paese, ma anche all'estero. Quindi il contesto, prima cosa da rivalutare per me. E questo libro cerca di fare quel passaggio lì, cioè, ok, sarebbero arrivati un sacco di libri, un sacco di articoli, come sono arrivati le giornate di Genova, come scontri, l'omicidio di Carlo, chi aveva torto e chi aveva ragione, ma abbiamo pensato, mettiamoci dentro una cosa di cui si è parlato poco negli ultimi 20 anni, almeno a livello, diciamo così, di libri e di mainstream. Sicuramente qualcosa è uscito fuori, ma poca roba anche questa volta, che erano le giornate della proposta. Perché il movimento dei movimenti stava lì non per andare ad assaltare la zona rossa, questo è un lato della lotta che si è pensato di mettere appunto dal punto di vista della manifestazione, in cui sappiamo i meccanismi e non di attacco peraltro, ma delle giornate in cui passavano tutte queste persone che arrivavano da tutto il mondo e ci raccontavano dal bilancio partecipato di Porta Alegre a Giuseppe Bové, la sua mucca che arrivò in maniera molto scenografica a Puntavagno, in questo bellissimo spiazzo di fronte al mare, le madri del Place de Maggio, gli economisti alternativi, che erano alla fine un'unità e protagonisti che portavano delle idee rappresentate da diversissime associazioni, più di 120 associazioni riunite nel Genova Social Forum, che aveva un disegno alternativo di società, ma proprio un pacchetto alternativo a quello che c'era allora e che, ahimè, c'è ancora oggi, perché poi effettivamente le cose sono cambiate, ma poco. Quindi la cosa interessante era andare a rivitalizzare quel tipo di proposta. Le persone che scrivono sono state chiamate ad analizzare determinati contesti, la finanziarizzazione, il mondo delle associazioni, la questione dei migranti, la questione dei diritti, e altri ovviamente, come il magistrato ovviamente, sulla questione invece di quello che riguarda i diritti personali e le pene assurde che sono state combinate con gente che ancora ricordiamo al gabbio per i fatti di Genova. Quindi la questione è che fosse un libro corale, e nello stesso tempo abbiamo fatto una parte di introduzione sul contesto, una parte di fatti, i fatti nudi e crudi a cura di economia, e poi via via con gli interventi che si succedono e, diciamo così, dei momenti in cui invece ci allarghiamo un po' di più sul ruolo della stampa, dei grandi media, sul ruolo della stampa, non della stampa ma dei media attivisti, che era una cosa nuova per allora. L'indie media era una novità molto importante e poi una rilettura anche del conflitto, quello che arriva alla fine con Donatella Della Porta, che è una professoressa che studia queste cose da anni, proprio mettendoci le mani dentro. Da prima di Genova fino ad oggi, sostanzialmente, quindi un qualche cosa anche di piuttosto articolato. Questo è il libro che io ho portato in giro già una ventina di occasioni in tutta Italia, e devo dire che le cose più interessanti vengono dai più giovani, cioè le curiosità che vengono, le domande, i ragionamenti associati ai social network di oggi, alle bolle del social network, e quindi anche a una domanda che viene spesso di attualizzazione di quelle che era la nostra maniera di reagire o di proporre o di raccontare, come nel mio caso, perché io andai da cronista e non da militante, perché andavo per Radio Popolare, ovviamente per una testata che condivideva in toto quello che era il programma del Genova Social Forum. Infatti volevo, a proposito di questo, chiederti nella prima parte, la seconda parte, anzi quella dei contributi, c'è anche un tuo pezzo proprio sull'informazione, perché una cosa anche in funzione di quello che dici tu dei giovani, cosa sanno, cosa riescono a recuperare adesso anche attraverso internet, tu stesso lo scrivi, cosa si sa di quelle giornate, di tutto quel periodo, il contesto, non soltanto di Genova. parli appunto anche di quella che è stata l'informazione, perché ha giocato un ruolo estremamente importante in quelle giornate, in una politica quasi della paura, proprio incutere timore, sta per succedere il finimondo. E quindi da giornalista mi volevo un po' sapere un pochettino la tua opinione su questo tipo di politica portata avanti dal mondo dell'informazione, dai media. Sì, distinguiamo fra il mainstream ovviamente e le redazioni indipendenti, dove c'è tutto un mondo di radio libere che era forse più ricco. Oggi siamo qui con questa radio e quindi sono particolarmente contento, perché la radio è un mezzo ancora molto potente come mezzo di comunicazione. L'editoria indipendente era sicuramente più forte allora. La crisi poi ha cancellato diverse realtà, non ultima Radio Città del Capo di Bologna, che era una voce, che è una voce che si è spenta, ahimè, smantellata ultimamente, che faceva parte del nostro network. Non c'era solo Radio Popolare, ovviamente, non eravamo così il centro del mondo, però c'era Radio Gap, c'erano tante altre radio, ma c'era appunto Indimedia, che era la novità, perché insieme all'audio giravano le fotografie, i video. E infatti i video stessi girati dai mediattivisti furono quelli poi mandati dalle televisioni ufficiali. Uno da Mentana, che è criticabile sotto ogni punto di vista se volete, però devo dire che i primi video della differenza, le prime fotografie e video della differenza, dello schiacciamento della fotografia di Carlo Giuliani, li ha messi non da lui. E l'altro, pensate un po', fu il TG1, perché il direttore del TG1 era dimissionario e quindi, diciamo, come per togliersi quasi un sassolino dalla scarpa rispetto ai suoi evidentemente nemici interni, mandò in onda delle immagini degli scontri che erano state prese da Indimedia, per cui una cosa che fece conoscere al grande pubblico qualche cosa che sarebbe stato taciuto in realtà, perché un altro caso era quello appunto della serata di talk show che ci fu, dove, non so se lo ricordate, ma vennero esibiti i proiettili, perché a Genova il 20 luglio si spararono 10-15 proiettili sostanzialmente, e uno andò a segno, ahimè, però se ne spararono di più di uno. Quindi in realtà anche quella scena, che io mi ricordo perfettamente bene, di far vedere i bossoli dei proiettili sparati, fu un colpo di scena televisivo. I media mainstream reagivano in base a due cose. La prima era una questione di presentare il movimento solo attraverso quella che era una delle ali più dure, che erano le tute bianche, da cui la grande notorietà di Casarini, nello storpiare determinate cose che vennero fatte più, diciamo così, strategicamente, tatticamente, bene o male, questo lo lascio a ognuno di voi, tipo la dichiarazione di guerra, che era una dichiarazione che a leggere era una dichiarazione perfettamente comprensibile nel suo scopo, ma avveniva per esempio in un contesto dove già la grande stampa era drogata e stava gridando allo scontro, non so, una guerra per le vie di Genova, alle veline dei servizi segreti ovviamente, quindi sappiamo i palloncini col sangue infetto, i copertoni incendiati da far rotolare nei carrugi e via dicendo, erano le balle che i mettonari, tra virgolette, come il Corriere, Repubblica, prendevano e mettevano in pagina con buona pace dell'intelligenza delle cose, no? Per cui devo anche dire però che fra le grandi testate e i loro inviati c'era un problema enorme, perché giornalisti come Marco Imarisio, che comunque ha fatto una carriera al Corriere della Sera, quando raccontava quello che vedeva, lui lo raccontava, ma poi aveva un problema laddove la titolazione del giornale, gli editoriali che uscivano, andavano in una direzione esattamente opposta. Quindi non che ci fosse una censura sul suo pezzo, ma una storpiatura proprio di quello che... Mentre quando sei inviato, la regola interna delle redazioni è che l'inviato che comanda, non è la redazione. L'inviato è sul posto, l'inviato è quello che vede, è quello che ti dice. Poi tu devi fare un'operazione diversa in redazione, cercare di strutturare tutto quanto, di vestire quello che ti dice l'inviato. Però ci fu anche una grande rabbia di molti colleghi che erano colleghi del mainstream e che si videro trattare i pezzi come qualche cosa che veniva da Marte alla fine. Quindi il mainstream ha portato avanti colpevolmente le teorie del Viminale sostanzialmente, ma non soltanto, direi, perché poi noi riduciamo sempre Genova a una questione di ordine pubblico da quel punto di vista lì, e io direi sì, più che repressione indivisa sicuramente, ma regia più che italiana sicuramente, cioè io lo metterei dentro uno di quei fatti di regia più atlantica, perché la repressione del movimento a livello internazionale era una cosa che era voluta ed è stata fatta in maniera scientifica a partire da quello che fu Seattle e poi via con tutte le altre manifestazioni internazionali fino ad arrivare a Genova, che fu un momento di convergenza totale di tutte queste anime, e lì doveva essere stroncato, per questo dico i 15 bossoli, perché in molti pensiamo anche che non per fortuna, ma c'è stato un morto solo, ma potevano essercene anche di più sicuramente. C'è qualche cosa che ha bloccato la repressione, o comunque sia la repressione totale, secondo me la stampa se ne è un po' accorta alla fine, ed è, vi dicevo, i due casi televisivi che comunque piaccia o non piaccia sono importanti, e l'altra è la reazione delle persone, cioè finito il G8, al di là dopo la macelleria messicana della Diaz, la gente che scompariva in prigione e non si sapeva dove erano, eccetera, ricordo le grandi manifestazioni in tutte le città italiane, grandi e piccole, davanti alle prefetture, cioè al simbolo ovviamente dello Stato centrale, a chiedere non soltanto giustizia ma a gridare vergogna assassini. Quella fu, io credo, una svolta interessante per evitare altri tipi di derive, visto che poi Gianfranco Fini in Parlamento si divertiva a dare sostanzialmente dei complici di violenza a quelli di Rifondazione Comunista, che allora erano vissuti un po' come, diciamo così, la frangia estrema della sinistra parlamentare. No, le radio invece, l'editoria indipendente, faceva un lavoro che è sempre quello che ha fatto, che negli anni 70 si chiamava controinformazione, e poi noi invece abbiamo sempre scelto di chiamare informazione, presupponendo che quella che fanno altri invece non lo, e quindi le radio indipendenti erano sul pezzo nel fatto che erano dentro il movimento, alcune, altre erano fiancheggiatrici, come si sarebbe detto negli anni 70, del movimento, ma sempre con delle cronache molto puntuali, per cui più informate degli altri sui temi del movimento, quindi maggiore disponibilità anche al racconto, e con una capacità di lettura delle manifestazioni superiore spesso, perché si basavano su fonti che venivano all'interno dei movimenti e non sulle fonti invece di polizia, che sono in generale la Digos, via dicendo, che sono quelle invece che ti distorcono anche in parte il messaggio. Non so, adesso mi veniva anche un po' spontaneo, perché prima di iniziare ho proprio pensato, voglio chiedergli un po', fare una domanda un po' diretta, ma quindi in quei giorni tu eri lì, e cosa è vero che eri lì in qualità di giornalista, però un po' anche un aspetto un po' più personale, proprio adesso raccontavi di questa vera informazione, e un po' come erano andate quelle giornate per te. Volevo farla alla fine, invece la sto facendo adesso, visto che stavamo un po' in tema. E so, allora, che è una domanda un po' diretta, è un po', no, un po' difficile. Le cose a sprazzi in genere non lo racconto. Allora, mi sono cambiato poco, punto primo. Cioè, erano giornate, sto parlando di quelle delle manifestazioni, poi quando è peggiorato tutto. Erano giornate in cui dormivi niente, perché eri sempre, ovviamente, o eri per strada, quando finiva la manifestazione eri piuttosto distrutto, ma c'era da scrivere, poi c'era da proseguire un lavoro di indagine sulle cose, quindi mi sono cambiato poco, avevo più o meno sempre sulle stesse cose, dormivo dei sonni brevissimi, ma quelli che conosciamo, no? Quelli che ti metti giù e poi ti svegli, sono passate 4 ore ma ti sembra di 5 minuti. Ma soprattutto direi che la cosa che mi ha colpito di più era io sono arrivato a Genova 10 giorni prima per seguire tutto quello che era la costruzione delle gabbie, la costruzione, quindi ho vissuto una parte precedente. Danilo De Biasio, che era il mio capo redattore, mi aveva affidato i rapporti con la polizia, quindi ho vissuto anche tutti i mini petardoni o bombette che hanno messo con le sigle, come al solito, pseudo-anarchiche, ma ben riconoscibili dei servizi, che erano state 3, mi pare, proprio il giorno prima, 2 giorni prima che iniziasse, erano le date ufficiali del G8. E poi ho camminato tantissimo per Genova, prima addirittura di Puntavagno, e camminando per Genova io andavo a cercare un po' le notizie, per cui andavo soprattutto nella zona del Porto Vecchio, andavo nei bar, parlavo con le prostitute, e quindi era da loro, avevo un po' il polso della situazione. Erano arrivati tanti sbirri, le prostitute erano contente perché c'era tanto lavoro, i bar erano contenti perché si vendevano tanti panini, questi si trovavano in determinati pub che erano abbastanza di destra e noi andavamo lì a un po' orecchiare, queste cose che si fanno per sapere un po' di cose, e quindi facciamo questa cosa. Poi Puntavagno è stata l'esplosione invece nel momento creativo del movimento, per cui eravamo contenti di stare lì a raccontare, intervistare, c'era tante idee interessanti che anche i cronisti erano contenti di poter finalmente mettere, diciamo, l'accento sulla proposta. E poi invece è stato i giorni più bui, ovviamente quando è stato ucciso Carlo Giuliani, che a me l'ha detto Giuliano Pisapia, che stava scendendo alla testa di un corteo che stava scappando, che mi ha detto: hanno ucciso un ragazzo, però state attenti a dirlo quando, perché siamo ancora tutti in manifestazione. Io allora lì andai in questura perché volevo chiedere, ma avevo anche il cellulare scarico, per cui ho messo il cellulare a caricare dentro una stanza senza chiedere, dove stavano parlando di questa cosa, per cui mi sono messo ad origliare un pochino. Si dicevano quelle cose che sono passate sulla stampa, cioè un ragazzo spagnolo, forse basco, ha i capelli rossi, che in realtà purtroppo invece era il sangue, e via dicendo, fino a che è arrivata la notizia invece che era Carlo Giuliani. Da lì mi ricordo anche dei momenti che poi alla fine uno si dimentica perché si ricorda più il flusso, ma per esempio nella carica di Via Tolemaide io avevo il telefono ancora scarico perché si usava molto il telefono, e quindi io ho suonato al citofono a caso, mi hanno aperto, sono andato su al terzo piano su Via Tolemaide, e quindi ho attaccato la ricarica del telefono e facevo le cronache sdraiato sul balcone perché non arrivava il cavo. E quindi raccontavo, Lorenzo Valera era sotto ma ogni tanto non riusciva a raccontare perché c'era il lacrimogeno che lo bloccava, e quindi ci passavamo un po' attraverso la regia la palla. E mi ricordo che però la moglie era gentilissima di questi, erano due pensionati, la moglie molto gentile, il marito invece era al telefono che faceva tipo le spiate agli sbirri, e poi quando sono uscito mi hanno dato tre mele, che sono state le tre cose che ho mangiato nei tre giorni. Di cui mi posso vantare adesso, dopo 20 anni, ho lanciato solo i torsoli contro la polizia perché ero molto affamato e non mi sembrava molto deontologicamente, quindi no, scherzi a parte, ma ero molto affamato e me li sono mangiati. Però devo dire che la rabbia che si viveva, la rabbia che ho vissuto in quei giorni andava molto oltre a quello che era il mio dovere professionale. Eravamo stati istruiti molto bene dalla scuola di Scaramucci, per cui non se ne parlava di sgarrare, ma eravamo in 27 inviati, uno solo è stato ferito, ma devo dire che quando ti dicono le solite domande che ti fanno in giro, ma com'è possibile che quello là si è messo a, o perché ha preso l'estintore, si dice, tu non hai idea di cosa voglia dire essere repressi in quella maniera per ore dentro quella zona, e mentre stai rivendicando delle cose peraltro del tutto normali, anzi di futuro eccetera, ti scatta una rabbia che diventa conflittuale immediatamente, cioè diventa una cosa per cui ti monta l'ira, la furia, ecco, mi chiamerei la furia, una cosa. E quindi mi ricordo un po' questo, e mi ricordo l'ultima cosa, Giulia, il direttore, finito tutto, mi ricordo due cose. Alla Diaz, quando è successa la Diaz, eravamo tutti a mangiare una pizza perché pensavamo fosse finito tutto, e c'era solo Silvia Giacomini in redazione che non riusciva a contattarci perché la pizzeria non aveva campo, per cui Lorenzo Valera esce a dettare un pezzo, Silvia lo raggiunge, noi in 10 secondi siamo tutti arrivati là con quelle interviste di Piero Bosio veramente incredibili al questore di Genova, che non sapeva niente mentre passavano le barelle sotto il suo naso. E poi Piero Scaramucci che mi disse il giorno dopo, due giorni dopo, tu resti a Genova un'altra settimana, io volevo tornare a casa, ero un po' abbastanza stanco, però sono rimasto un'altra settimana, e fu una settimana dove noi cercavamo il secondo morto, perché c'era questa storia che ci fosse un'altra vittima, c'era stato segnalato dai medici dell'ospedale Galliera, però alla fine non trovammo niente. Tornato a casa poi abbiamo fatto i dischi di Radio Popolare, che sono stati forse direi una delle cose più belle che abbiamo fatto forse anche più utili dal punto di vista della memoria. Ecco. Grazie, perché questo è anche un pezzo, immagino, non proprio facile. E un po' per ritornare anche al filone, che sia per un po' presentare il libro, ma anche per ritornare un po' al filone del nostro un po' intento, tu nell'ultima parte del testo, introducendo gli altri contributi, parli di un seme. E usi questa metafora usata da un altro giornalista, Alessandro Leogrande, questo seme sotto la neve che deve germogliare. E insomma, volevo un po' chiederti di spiegarci questo concetto, perché credo che appunto per le persone più giovani, ma sia per dare anche una riletta, ma anche in vista del futuro, penso che sia una cosa estremamente importante. Sì, il seme è preso da Alessandro Leogrande, che ahimè ci ha lasciato troppo, troppo giovane, ed era il vice direttore dello Straniero quando l'ha scritto. Erano proprio poche ore dopo che era finita Genova, sostanzialmente, e lui scrisse una frase che riporto nel libro, dove dice appunto, è piuttosto pessimista in realtà nella sua frase, perché dice: arriveranno le cornacchie della politica, arriverà, insomma, non era un momento. E per molti anche di quelli che scrivono, per esempio lo stesso di Fondazione Feltrinelli, che adesso non mi ricordo il nome, ma David Bidussa, dice: per me Genova è sintomo di una sconfitta all'inizio, no? Cioè, c'è tutto un pezzo generazionale anche che vive in queste botte che aveva preso da Orbi, un significato molto profondo di cosa vuol dire togliere la voce a un movimento come quello. In realtà però io l'ho preso un po' capovolto, perché in realtà l'immagine del seme sotto la neve è bella laddove i detrattori, per così dire, del movimento ti dicono 20 anni dopo: ma non è rimasto niente. E io invece la vedo un po' più ottimista, il mio bicchiere è un po' più mezzo pieno, nel senso, non è che si sia vinto, assolutamente, abbiamo preso un sacco di botte, però c'è stata, io credo, un travaso capillare. E vabbè, il fenomeno carsico lo diciamo tutti, no? Il fenomeno carsico del movimento, che è apparso Firenze 2002, poi la manifestazione contro la guerra 2003, e poi è apparso nel 2005 gli indignati, poi sono apparsi Occupare, uno di meno, tutti i movimenti femministi di genere. Iniziavano già, gli ambientalisti c'erano sempre stati, ma fino a Black Lives Matter, e poi diciamo fino ai Fridays for Future, che è un po' la proiezione anche un po' poetica che facciamo noi, no? Però nel senso che questo seme germoglia laddove le persone che sono state a Genova, cioè quelli che poi in questi 20 anni soprattutto hanno messo su casa famiglia, non hanno smesso molto spesso di credere in quei valori. Io penso che li abbiano e li stiano trasmettendo molto spesso nell'agire che fanno di quartiere, per esempio, nell'educazione dei figli, nel discorso sociale, anche senza essere sulle prime pagine dei giornali. Cioè un qualche cosa che si muove più per dimensioni territoriali strette e per reti che ancora ci sono, anche se non c'è più Lilliput, non c'è più questo o quest'altro movimento. Mentre i giornali, che sono ahimè uno dei grandi mali del nostro tempo, purtroppo, per come sono fatti, ci da raccontare, non si accorgono molto spesso invece che le piccole azioni sono quelle che modificano a cerchi concentrici, no? È il sasso che tiri nello stagno che poi fa il movimento, non è sempre che tira un masso, puoi tirare anche un sassolino. E quindi io penso che questo seme è sotto la neve, e sotto la neve è attraente, è seducente, cioè i ragazzi più giovani ti guardano come se fosse un'epoca d'oro, non lo era, c'era un sacco di scazzi, c'erano molti diverbi fra le ali più dure, quelle più moderate, il movimento andava dal fisico, per cui voglio dire è stata un'impresa veramente anche per il povero vituperato Agnoletto tenere insieme tutto quanto, no? Che di errori ne avrà fatti, però... Insomma, devo dire che... E si decideva tutto all'unanimità, per consenso, che mi sembra... c'è una retorica, io credo, anche della sfiga, un po', che ci pervade, laddove un po' tutto ciò che è a sinistra o più di niente Invece io penso che molte cose passano, che molto spesso le realtà che si danno da fare per ragionare, anche se restano molto schiacciate, sono quelle che riescono a fare un buon lavoro e sono quelle che soprattutto danno possibilità di scoprire dei discorsi. Questo è legato al discorso del contesto per me, cioè se io non racconto le cose, se io non rendo partecipi le persone, perché da portato, è inutile che abbia fatto la pipa, ma ci ha portato appunto al social, le cose, benissimo. Io andavo a scuola con sotto il giornale, sotto al banco, che fosse il Manifesto, Repubblica, insomma, allora erano giornali anche un po' diversi. E noi ogni giorno leggevamo comunque il giornale. Non credo, da quello che vedo io nel mondo scolastico, che oggi ci sia una cosa simile, se non le notifiche di TG.com sui telefonini preimpostate da Huawei o Samsung quando accendi il telefono, che rimangono lì, e quindi cioè è venuto a mancare completamente un'ossatura importante. Mio nonno tornava a casa con l'unità sotto il braccio perché si identificava con quello che leggeva, e quello che leggeva gli dava un senso non della sua identità innanzitutto, si scambiava l'identità, e poi della concezione del mondo. Ed era una cosa importante questa cosa, no? Che fosse l'unità, il manifesto, o che fosse lotta continua, ma che fosse anche il giornale, voglio dire, di Montanelli, che a casa mia per moltissimi anni non ho letto il giornale di Montanelli. Mi ricordo da piccolo sono andato a comprarlo per mio padre e uno mi ha detto fascista, io non capivo, lo guardavo, c'avevo avuto 8 anni, metti una cosa così. Ma la questione è che tutti questi punti di riferimento sono venuti a mancare. Ma perché sono venute a mancare le grandi categorie, l'editoria è un'editoria spalmata in maniera demenziale sul marketing, e le notizie vengono raccontate in maniera sfilacciata, in maniera poco attraente anche. In più è venuto a mancare tutto l'aspetto conflittuale che avevamo sviluppato moltissimo negli anni 70, negli anni 80, un po' negli anni 90, nel 2000 ancora, e poi è venuto a mancare questa cosa sempre di più. Per cui io mi ricordo, per fare il vecchio, picchetti per la Palestina, che adesso non mi risulta, a meno che io sia fuori un po' dal giro delle scuole medie superiori, però che si facciano grandi manifestazioni per chiedere queste cose. O per reagire, noi al Beccaria ai tempi si erano raccolti i soldi per comprare le armi per Mandela, che oggi passa come un uomo pacifista che ha fatto il bene nel Sudafrica, ma che ai tempi, negli anni 85, 86, 84, 85, mandava degli emissari con l'ANSE a fare colletta per comprare i fucili. Quindi non è che fosse esattamente il più pacifico delle persone. Dopodiché è sempre quello, è sempre Mandela, per cui se è grande adesso e mi dici che è grande, era grande anche prima, e quindi c'è molta ipocrisia. C'è paura, per chiudere, che sono troppo lungo, c'è paura nell'affrontare anche il tema della conflittualità. Quindi c'è paura, io credo, anche da parte, non dico di chi ha più pratica in queste cose, ma soprattutto delle persone che ne hanno meno, dei ragazzi che ne hanno meno, a pensare che ci possa essere un grado di conflittualità superiore. I Fridays for Future, che abbiamo messo nel libro per onorare il fatto che il cambiamento climatico era uno dei grandi temi di cui si parlava a Genova, sono assolutamente un osservatorio straordinario, laddove li compariamo con Extinction Rebellion, dove Extinction Rebellion è molto più avvezzo, per così dire, allo scontro diretto, mentre i Fridays sono ancora molto naif da certi punti di vista. Ma la cosa che sta succedendo è che più l'orologio va avanti e il tempo si accorcia, più le richieste che vengono inevase non potranno che causare delusione, frustrazione, e si spera anche un po' di vivacità nel dire che queste cose ce le debbono. E quindi è lì che temo, e sono interessante nel vedere che cosa succede poi a questi giovani ragazzi così festosi, che non hanno mai avuto problemi particolari con la polizia. I Fridays for Future non hanno mai avuto problemi. Io li vedo quando sfilano, non si preoccupano né di cercare via di fuga. Quindi in realtà, per questo dico, anche il seme è interessante, perché il seme germoglia, e man mano che tu gli racconti anche una storia diversa di come affrontare le cose. L'ultima domanda che mi ha fatto la Comparelli, che è quella che ha scritto nel libro prima che diventasse famosa perché ha portato la Greta Thunberg da Draghi, Ma quindi cosa ci consigli? Ai tempi ci doveva ancora arrivare Milano, la pre-COP. Quindi cosa ci consigli per la pre-COP? Come ci dobbiamo mettere in piazza? Ma che ne so io, cioè, non è una cosa che ti posso dire io, no? Martina, cioè, scegliete voi come fare. Te lo dico perché è un atteggiamento anche che abbiamo avuto in un'altra occasione con tre compagne simpaticissime di 20 anni che sono venute a farci le domande a Rob De Matt, a me, a Danilo De Biasio e a Fedor Somoza, dove alla fine, prese l'entusiasmo per quello che raccontavamo delle idealità che si muovevano, ci hanno detto: ma voi dovete venire e guidarci. Ho detto: no, non dobbiamo guidare niente noi siamo una generazione che accompagna, secondo me, che travasa, che ti può raccontare e ti può dire: se hai bisogno sono qua, ci sono. Non è che dico poi avanti voi, perché mie figlie invece dicono: bravo, adesso dobbiamo fare tutto il lavoro sporco, lo dobbiamo fare noi. E dico: no, io ci sono, però non posso neanche dirti più che sono il protagonista, mentre mi sentivo più protagonista 20 anni fa, ovviamente. Grazie mille. Almeno in questo momento Giulia, come anche redazione radio, è sicuramente molto interessante anche sentire risuonare certe cose anche delle interviste che abbiamo fatto noi, e ci mancava anche un po' questo tipo di punto di vista così specifico. E intanto chiedo anche se magari ci sono domande dal pubblico qui presente, magari qualcuno, qualcuna. Innanzitutto mi piace l'idea del seme, perché forse io, la mia generazione, siamo un po' quel frutto, no? Cioè, voi avete creduto in quel seme e noi siamo il risultato. Ma la domanda che mi viene spontanea, che è abbastanza ridondante, è: come sarebbe stato questo evento oggi? Non tanto dal punto di vista della qualità dell'informazione, quanto appunto al fatto che l'informazione stessa è delegata a noi. Cioè, si sarebbe potuto prevedere un po' quello che sarebbe successo, cioè il fatto che le persone in un qualsiasi momento possano filmare, banalmente, e condividere quello che vedono. Avrebbe effettivamente cambiato le cose? Allora, la seconda volta, perché prima è venuto un giornalista che mi ha fatto delle domande, mi ha fatto anche lui più o meno una domanda simile, però diciamo la tua è più sui mezzi di comunicazione che abbiamo adesso. Allora potevamo filmare, e abbiamo filmato tanto con Indy Media, ma non potevamo condividere in tempo reale, che è la cosa invece che fa la differenza. Quindi in realtà sarebbe stato tutto molto diverso, perché la condivisione avrebbe chiamato in maniera molto più rapida, la condivisione frena anche, avrebbe frenato sicuramente qualche cosa, io credo, che è l'effetto che vi dicevo hanno avuto poi questi video che sono stati poi trasmessi ore dopo. Tenete conto che Indy Media disse a Mentana: il pacchetto o lo mandi così o non t'azzardare a mandarlo, perché sapevano che poi ovviamente tutto puoi tagliarlo, e lui lo mandò così, va bene. E noi, chi era là poteva mandare il suo video direttamente su tutti i canali social, e sarebbe stata una cosa assolutamente diversa. La cosa che però, facciamo anche il giochino all'incontrario, non saprei dirti però quanto avrebbe fatto male invece a questa unione del Genoa Social Forum avere i social. Cioè il fatto che loro potessero avere dei portavoce che si riunivano per, come abbiamo detto, per consenso, ed esprimevano una posizione pubblica, era perché c'era un discorso di delega che dalle assemblee partiva verso il portavoce, portavoce nell'assemblea dei portavoce, fino al portavoce nazionale. Questo sui social sarebbe stato molto più oggetto della classica cosa che si fa sui social, cioè siamo tutti allenatori, già dicendo, no? Siamo tutti esperti di Covid, siamo tutti esperti di... Questo forse non avrebbe fatto tanto bene, però dovremmo ragionare per estremizzare come se avessimo avuto i social e gli smartphone con quel tipo di mentalità che avevamo allora, non oggi. Invece con la mentalità di oggi questo rischio ci sarebbe probabilmente. E anche di mandare un po' in vacca la discussione, perché poi i troll mandano in vacca un po' la discussione. E le bolle sono bolle. L'altra cosa che mi dicevano a Padova, dei ragazzi dell'Unione degli Universitari, erano: ma scusa, io se faccio anche un lavoro buono di informazione sui social, sempre nelle mie bolle sto. Perché o paghi o stai nelle tue bolle. Per cui anche questa continua ridondanza di pensiero, dove puoi un po' scazzarti, però tutto sommato ci capiamo con chi ci sta dentro nella nostra bolla, significa che l'algoritmo ti impone di stare in un posto dove lui decide con chi devi parlare, che è, estremizzandoci, pensavo ieri guardando l'ennesima serie su Netflix, è che Netflix ha capito che mi piace il crime, che mi piace di un certo tipo, mi dà le percentuali se mi piace, cioè tu devi guardare una serie che all'84% ti piace. E allora io devo saltare sui profili delle figlie per cercare di trovare delle cose nuove, perché se no non le trovo su Netflix, cioè posso cercare quanto voglio, ma o so un titolo oppure non le trovo. Quindi anche lì è un discorso sempre di algoritmo che ci guida dentro una realtà che ci cuce addosso, in base a dei criteri algoritmici, appunto. Quindi è interessante, sì, secondo me avrebbe frenato, ma ci avrebbe dato quest'altro tipo di problema dall'altra parte. Qualcun'altra? Qualcun altro? Qualcuno che non è d'accordo. Eh? Qualcuno che non è d'accordo. Qualcuno che non è d'accordo anche. Io no, stavolta no. Non ho da controbattere. No. Zero. Ciao. Io sono un po' aiutante di Giulia in questa presentazione. Anche a seguito tutto il lavoro della redazione che abbiamo fatto su Genova in questi ultimi mesi. Stavo riflettendo proprio sull'ultima parte di cui ci hai raccontato, cioè del seme sotto la neve. Però spesso nelle interviste che abbiamo fatto in questi mesi, di cui tanti ci hanno raccontato tanto, tante ci hanno anche detto non volevamo parlare di Genova. Cioè c'è stato un po' un rimosso tra le persone che hanno effettivamente partecipato e fatto parte di quel movimento e la costruzione di una cinghia di trasmissione, che sembra in qualche caso che si sia interrotta ad un certo punto, perché tanti e tante non volevano più parlarne, oppure se l'hanno ritirate, come hai fatto l'esempio tu, a vita privata, a percorsi più dedicati, più precisi, e un po' questa cinghia si è interrotta. Io, Giulia, un po' di gente che siamo qui, facciamo parte di una generazione di mezzo, cioè che abbiamo iniziato a fare politica quando Genova era quasi, cioè era finita, cioè era... C'era qualche anno, c'erano ancora gli strascichi, ma non abbiamo visto tanto. Ad esempio, io spesso mi sentivo dire ma tu non sei venuta a Genova, e si finiva lì il discorso. Dunque, quando parliamo anche le nuove, cioè io non mi sento né vecchia né nuova generazione, cioè se vedo, non so, delle altri compagni di ZAM che stanno facendo ora l'università, io vedo in loro delle robe che noi, che siamo una via di mezzo, che abbiamo intorno ai 30 anni, ci siamo bloccati. Abbiamo vissuto un periodo un po' strano in cui c'è stato 10 anni di berlusconismo, altri 10 anni di non governo, e se proprio un po' questi 20 anni dove noi siamo cresciuti e cresciute ci hanno un po' bloccato la prospettiva. Dunque, un po' la domanda e la riflessione era: sì, le giovani generazioni hanno delle nuove prospettive, ma nel frattempo cosa ci siamo persi? Il frattempo dove lo metti però? Il frattempo è in questi 20 anni proprio. Ah, ok. Ci siamo persi tanto, nel senso che partiamo da quella bandiera là. No, va bene, ma è chiara. Partiamo dalla bandiera del compagno Che Guevara, che è sempre nei nostri cuori, davvero. Allora, noi del Novecento, non per fare un noi e voi, ma noi del Novecento siamo cresciuti con degli esempi vicini, nel senso che per me è più vicino, ovviamente, per me la storia di Allende, della Moneda, è più vicina la storia dei Barbudos che liberano Cuba in pochi in maniera eroica, è più vicina a tutta l'epopea di Che Guevara, ma anche perché semplicemente non è che ci andava in giro con uno smartphone, no? Cioè, semplicemente per dire una cazzata. Quindi gli esempi di resistenza e di conflittualità con cui si era nutrito il Novecento erano esempi estremi, estremi, che poi hanno portato alle stagioni che conosciamo in Italia, no? Forti dal punto di vista della politica, del pensiero politico, estremo, la lotta armata, uscire dalla lotta armata, la questione carceraria, che tutte cose di cui si è parlato anche poco nel paese, no? Che poi vengono fuori dopo, perché dopo escono i libri, ma tu pensa, adesso faccio una divagazione veloce per spiegare, non so se qualcuno di voi ha visto mai nelle Techerai o in giro La Notte della Repubblica, non l'avete mai vista, è una trasmissione con Sergio Zavoli, che era un signor giornalista, che intervistava a un certo punto i brigatisti. Ma ragazzi, andate a vederle, perché cioè, quando Zavoli intervista Moretti, che era ritenuto il capo delle Brigate Rosse, c'è qualche cosa che oggi non vedremmo mai. Innanzitutto non ce lo farebbero vedere, perché non è possibile che la televisione di Stato faccia vedere un'intervista a uno che è stato il capo del... E invece lui l'ha fatto, non solo uno, ma ne ha fatte tante. E poi c'era questo rispetto fra i due nella domanda e nella risposta, dove Zavoli però riusciva a dire a questa persona il suo punto di vista giornalisticamente, quando quello proponeva delle vie di uscita politiche su domande per esempio invece personali e rispetto alle vittime, Zavoli lo riprendeva in una maniera estremamente pacata. Cioè, pensate gli anni luce, quindi cosa ci siamo persi in questi 20 anni? Chiudo la divagazione. Ci siamo persi un percorso un po'... Siamo scusati dal fatto che c'è stata una rivoluzione del linguaggio, della comunicazione, del fatto che possiamo... Un po' c'è stata una rivoluzione dal punto di vista del lavoro e quindi ci hanno atomizzati, precarizzati, ci hanno tolto la capacità di agire, diciamo così, in massa. Un po' c'è stata il benedetto sindacato, che una volta comunque contava qualcosa, poi ha contato sempre di meno finché è arrivato... il mitico Renzi, che ha cancellato il sindacato, manco fosse Licio Gelli col suo piano della P2 che lo prevedeva, e quindi siamo trovati senza intermediazione, ci siamo trovati con un sistema di informazione assolutamente in balia del marketing, molto più di prima. Prima erano pagine di pubblicità, le riviste nascevano per vendere pagine pubblicitarie molto spesso, no? Però poi dentro ci mettevano dei contenuti, avevamo dei signori mensili, avevamo dei signori giornalisti che facevano delle cose molto belle. Ricordatevi sempre che nel Corriere della Sera di tanti anni fa, ma proprio tanti, scriveva Calvino. Cioè, stiamo parlando, se voi andate al Corriere della Sera, fate la scalinata, vedete le autoritas del giornalismo del Corriere, ti viene da piangere, no? Perché vedi Calvino, vedi gente che, cazzo, averne, no? Cioè, la bella scrittura oltre che la notizia. Quindi siamo lontani anni luce da queste cose, ma... Io sostengo che in quei 20 anni, te lo dico un po' per quello che vedevo in radio dai fax o dalle cose che ricevevo poi dopo più tecnologicamente avanzate, a invece quello che abbiamo visto nei movimenti all'estero, per esempio gli indignati, che è una cosa che ha portato poi a un partito politico che sta comunque al governo, poi che adesso ha posizioni più moderate rispetto al primo piano economico che aveva disegnato Podemos sicuramente. Ci siamo persi via una stagione che è stata contraddistinta da Berlusconi sicuramente, il moderatismo, cioè il moderatismo qui è andato di moda in una maniera criminale dal mio punto di vista, cioè dobbiamo essere moderati, noi siamo quelli del decoro, no? Questa cosa, il decoro, moderatismo, le riforme devono essere riforme, mai riforme particolarmente interessanti o diciamo così d'avanguardia, ma sempre cose molto molto mediate. La politica del viaggio al centro, ma che è stata una politica del viaggio al centro anche molto nei giornali e molto nel cercare l'audience, per cui tu alla fine andava quasi di moda farti vedere come un moderato. Chi è sto straccione che si permette di urlare 4 consegne col pugno alzato? Noi siamo moderati, cioè siamo eleganti, no? So come dire, no? Abbiamo delle idee, voi urlate. E nello stesso tempo la trasformazione della destra italiana da una destra liberale, quella sì che c'era, non ti poteva non piacere, ma io mi ricordo i repubblicani, i liberali e poi quegli schifosi del movimento sociale, ma ha invece una destra che è stata ovviamente incarnata da Berlusconi, dove ha tirato dentro tutti quanti, no? L'estrema destra, la destra di Fini, poi è arrivata la Lega e poi è arrivato il 5 Stelle. Quindi ci siamo persi nella trasformazione della politica, che è la trasformazione della società anche, e della trasformazione del lavoro, ci siamo persi un'incapacità di governo di questo paese incredibile, dove la classe politica è stata, io credo, negli ultimi 20 anni la peggior classe politica che abbiamo avuto, perché ti fa rimpiangere, paradossalmente, no? Sembra sempre lo scherzo che fai al tavolo con i vecchi amici, qui dici, Madonna, ma averne di quei farabutti che rubavano, ma perlomeno avevano un'idea della politica. Gianni De Michelis, che era uno che rubava, però aveva un'idea della politica, era un ministro degli esteri che sapeva di cosa parlava, nonostante poi lo prendessero in giro per le discoteche, i capelli unti e tutto quello che magari voi non ve lo ricordate neanche, Gianni De Michelis, voglio dire, però c'erano questi personaggi del mondo socialista che erano delle macchiette un pochino, no? E all'interno del giornalismo c'era un sistema, soprattutto nel mainstream, molto di raccomandazione, per cui i giornalisti arrivavano in Rai raccomandati, anche oggi, però dire, allora di più, e però arrivavano preparati, cioè quelli che io ho conosciuto, che erano, dicevano proprio loro, io sono stato raccomandato da Claudio Signorile del PSD, ma erano signor cronisti, però era gente che sapeva lavorare. Oggi io temo che nei giornali ci sia una, non tanto una visione politica, cioè il Corriere di oggi che non ci piace non è il Corriere dei servi che si urlava negli anni 70, è un Corriere che è ciambraccone, non so come dire, è un Corriere che non è all'altezza, perché il marketing, devo fare il click, ti metto la DV, no. La politica lasciamo perdere, cioè la politica non ha più, le scuole di formazione politica che c'erano una volta erano delle scuole serie, tant'è vero che il PD quando nasce pensa di fare la scuola di formazione politica del PD, peccato che il PD non è né carne né pesce e quindi è un marchio sostanzialmente decotto nonostante vinca poi le elezioni amministrative, ma le vince con il 51% delle persone che non va a votare. Allora ieri a tavola, poi chiudo, ma ieri a tavola con le figlie il discorso era, mi dite voi, allora, vi spiego cos'è la democrazia rappresentativa, posto che questa è la democrazia rappresentativa, mi dite che democrazia è quella dove il 51% delle persone non va a votare, perché questo ci dobbiamo anche dire, ah ma in America è normale, in America sono anni che in America si vota, chi se ne frega, cioè voglio dire, allora le spiegavo della democrazia partecipativa, però spiegavo anche che c'è un problema geografico, perché non puoi fare in Italia una democrazia partecipativa nazionale, dovresti andare a chiuderti alla catalana, non so come dire. Quindi vi siete persi tanto perché tutto è molto in movimento ed è stata la famosa era che diceva Bauman della liquida, no? Benissimo, è stata liquida, ma è stata soprattutto di pensiero debole, pensiero debolissimo, e non soltanto debole, ma anche livoroso nei confronti del Novecento, per cui e te sei un ex comunista, e tu sei ex comunista, e sempre con queste cose. Forse una critica che possiamo farci tutti a sinistra, intesa dal punto di vista politico, anche troppo salottiera, no? Cioè, alla fine, qui non nasce niente se non è poi, se non ha la rivendicazione di un pedigree per cui ti puoi dire di essere finalmente la forza politica nascente che... E io aggiungo e finisco, perché mi sento un po' trombone in questo momento, manca un mezzo di informazione, se ci pensate, cioè a tutti quelli con cui ho fatto comunicazione politica, a proposito di comunicatori, io ho fatto un po' di comunicazione politica per varia gente, dicevo, ma manca quello che era l'unità di mio nonno, manca sta roba, è inutile che ce la racconti, ma sì, ma la gente va sul web, che gliene frega, no, devi dargli una cosa, che il web è come se fosse il vento negli alberi, ma il giornale è una roba che te lo tieni a casa e comunque è un investimento che fai politico per esprimere una palestra di idee, non manifesto va benissimo, ma è un secondo giornale, ci vuole un giornale nel senso di che poi è una piattaforma, che sia un web, che sia quello che volete, ma se ci pensate bene manca questo elemento dove uno va e può discutere di queste cose a livello di massa. Invece nell'individualismo noi perdiamo sicuramente. Scusate la lunghezza. È stato molto interessante. 20 anni che lo dire. Te le sei tenute lì, pronte a uscire. Vabbè, poi magari ho delle cose da dirti dopo, a riguardo. Però so che c'erano altre domande. Buonasera a tutti e tutte, sono Guglielmo. La domanda in realtà parte da queste ultime considerazioni che faceva Angelo riguardo alla mancanza di mezzo di comunicazione. Cioè, prima quando parlavi appunto del fatto, cioè, mi aveva colpito molto quando tu raccontavi del fatto di andare fisicamente in classe col giornale piuttosto che quello che rappresentava la classe operaia una volta, il giornale di partito, di movimento, piuttosto che il volantino per chi faceva parte di altri movimenti. Effettivamente, anch'io se ci penso, immagino difficile paragonare il telefono anche collegato al più bel sito di informazione, di movimento, che assolva lo stesso tipo di funzionamento. Al tempo stesso è vero che in questo periodo, ultimamente, se penso agli ultimi anni, ci sono alcuni giornali fisici che sono usciti che sono estremamente interessanti. Penso a Jacobin, penso a Cuckold Magazine. Quindi c'è, cioè, qualcosa esiste ovviamente, c'è sempre qualcosa che esiste, però non assolva lo stesso tipo di funzionamento in questo momento. La cosa che volevo domandarti, ma in realtà penso che un po' la domanda me l'hai già bruciata parlandone prima, è quale può essere o cosa può essere il mezzo di comunicazione che oggi assolve a quel ruolo di dare alle persone la percezione della propria identità all'interno della società. Per cui io sono studente, ho quel mezzo di comunicazione che è il mio, che mi racconta come sono e racconta fuori quello che sono ad altri soggetti e che quindi un po' mi aiuta a qualificarmi all'interno della società. Immagino che il problema sia legato al fatto che è tutto molto più liquido, tutto molto più problematico, abbiamo 50 lavori diversi, non uno solo, non abbiamo più un contratto per tutta la vita, ne abbiamo 30 o non lo abbiamo proprio. Cioè, io per esempio faccio fatica a dire che lavoro faccio, perché sono 6 anni che lavoro, uscito dall'università, non ho mai fatto uno uguale all'altro e tendenzialmente erano tutti in nero, per cui cosa sono io? Cioè, ma non vale l'ambito edile, però questa è la definizione più vaga che si possa dare. E, no, niente, la questione a quel punto magari arriva la domanda precisa è quanto il fatto che non siamo mai stati così tanto informatizzati, abbiamo un mezzo di comunicazione sempre in tasca, sempre acceso, con cui siamo sempre connessi, cioè dove si può trovare quel mezzo di comunicazione che ci caratterizza se non lì? Non so come dire, cioè, mi sembra paradossale il fatto che abbiamo sempre informazioni in tasca ma non abbiamo più l'Unità, il Manifesto, non abbiamo più il giornale di zona che ci dà un'idea. Tu hai ragione, nel senso che io sono d'accordo con te su questo, però ci sono due fattori che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, per esempio con Q-Code, che è una pubblicazione che c'è da 8 anni, cioè abbiamo più di 12.000 articoli, facciamo i semestrali, adesso passeremo, vi do la chicca diretta così, la radio fino a uno scoop, ascolti schizzo, passeremo al trimestrale, per cui viva. Però la questione è: quanto costa fare queste cose? Cioè, c'è una barriera economica che anche nella facilità di fare un blog, di fare un sito, c'è lavoro. Q-Code, per esempio, nasce senza un piano economico. Bene, cioè malissimo. Perché questa cosa vuol dire che nessuno di noi viene pagato per quanto riguarda il web. Sul giornale, quando è nato, abbiamo detto diamoci 2 lire e andiamo a mangiare una pizza. Benissimo. Però la questione è ancora diversa. Questo era per dire che l'editoria indipendente c'è, sta bene, ma ha un altro problema: quanti di noi sono disposti a comprare l'editoria indipendente? Non dico qua dentro, che magari tutti, ma quanti fuori, la gente che si lamenta fuori del giornalismo, che sente, è disposta, fra i vecchi per esempio, a mollare €1,50 o 2 al Corriere e darli invece a Jacobin, Q-Code o qualsiasi altra cosa venga fuori, perché è proprio poca. Allora viviamo di sottoscrizioni che sono anche 50, 100 euro che arrivano, però è un discorso diverso, è un discorso culturale, un po' che c'entra con l'Italia, nel senso dove tutto noi pensiamo che in rete debba essere gratis, e questa è una vecchia concezione che rimane, è una cosa forte. Un po' nasce dalla pigrizia, se andiamo a vedere i vari strati della società, dove uno non c'ha voglia anche andare a cercare una cosa che lo faccia pensare più di tanto, perché c'è una fetta, io penso che ci sia una fetta del paese, che io chiamo le persone più semplici, perché non voglio essere assolutamente offensivo, che gli va bene così, che gli va bene di alzarsi la mattina, andare a lavorare, guardare 4 cazzate e ti dicono, che era Luigi Ambrosio che lo scriveva in un post, che uno diceva: cazzo, ho perso le Iene ieri sera, così non resto informato oggi, ok? Cioè questa cosa qua, dove per anni si è detto le Iene sono un prodotto d'inchiesta, capito? Dove si è detto, dove si tessevano le lodi di personaggi che hanno fatto il cabaret in Italia. Ricci ha fatto il cabaret, intelligente, quanto vuoi, ma non ha fatto un qualche cosa che ha a che vedere con l'informazione di qualità. Invece questo paese va a mode a seconda del guru che esce fuori, che ti dice 4 cose, tutti dietro perché ovviamente poi c'è un'altra fetta della società che ragiona per mi schiero con questo così sembro più intelligente, e se no se devo dire una cosa invece che dà fastidio la devo anche spiegare. Quindi c'è da domandarsi non tanto dove noi che siamo interessati ai discorsi di Genova andiamo a recuperare l'editoria indipendente, che lo sappiamo noi, ma come farò a dire agli altri che c'è un altro tipo di editoria e che si devono preoccupare di cosa succede in Angola. So come dire. Ragazzo che mi ricordo una cosa con le scuole, dove un ragazzo di un istituto tecnico bravissimo ci guardò e ci disse: ma mi spiegate perché devo capire cosa succede in Angola? A me non ne frega niente. E dove cercare di spiegargli invece come fosse importante avere un'informazione a livello internazionale per capire come va il mondo, per avere un'idea del mondo, per avere una capacità di giudizio anche per le proprie azioni. Tanto ormai siamo globalizzati fino al midollo, per cui tanto vale avere un po' un'idea. In altri paesi ci sono cose diverse. In Francia, per dire, lo Stato finanzia le riviste, lo Stato finanzia i web documentari. Anni fa, per aprire un web documentario, lo Stato francese dava 5.000 euro a fondo perduto, che è poco per fare un web documentario, ma è già il cippino per cominciare, perché sennò lo devi fare gratis, cioè devi fare perché ti piace. E negli Stati Uniti le radio universitarie, comunque sia, sono radio che hanno avuto, adesso non so, io radio statale la sento poco, però ci sono esperienze di radio che nascono e che si fanno sentire e che prendono pubblico e quindi inizia a essere un luogo dove poter. E poi c'è una cosa, ahimè, molto antica, che è il fatto che fra indipendenti non ci si mette d'accordo. Cioè, una bella piattaforma dove ognuno ha la sua linea editoriale, ma sei in piattaforma, ma vogliamo parlarne? Cioè, questa roba qua dovrebbe essere il minimo sindacale, no? In maniera da fare massa, di avere invece di io, noi abbiamo 16.000 follower su Facebook, va bene, e invece fossimo tutti insieme ne facciamo come quelli del Fatto Quotidiano, per dire, non è poco. Allora lì puoi fare un lavoro diverso dal punto di vista tattico e strategico, però sta roba non ce la facciamo, un po' perché però tu te non sei trotskista, io non sono quell'altro, cioè lì ci blocchiamo su delle cose che sono un po' vecchiotte secondo me, o che sono anche giustamente ombelicali, perché poi uno ci tiene al suo prodotto, perché mi devo mettere con quello là che non mi è neanche tanto simpatico magari, no? Perché c'è un livello superiore secondo me, perché c'è una battaglia culturale secondo me da fare qua dentro in questo benedetto paese che è ampia. Lasciatemi fare ancora una volta il trombone. Io quando avevo 20 anni mi ricordo che per noi l'aspirazione era, andavamo magari a sentire qualche discorso o qualche conferenza o qualche mostra, e sentivi delle persone che ti parlavano di cose che ti affascinavano e tu dicevi: caspita, anch'io voglio sapere le cose, io voglio sapere le cose. Adesso, se voi andate a vedere nella provincia italiana, soprattutto in me quella più profonda, sapere è quello che dice, che hanno detto i vari ministri di Berlusconi, alcuni altri di Salvini, cioè il sapere non serve a niente, no? Tremonti diceva: con la cultura non si mangia, no? Non è vero, non è vero assolutamente. Il discorso delle forze di destra è povero, è molto povero, è una cosa drammaticamente povera su queste cose. E il marketing ci impone una serie di articoli estremamente poveri, ma veramente poveri. Cioè, non si capisce perché pubblichino delle robe che chi se ne frega, le pubblicavano i giornali scandalistici, le leggeva mia nonna su Novella 2000, ma era Novella 2000, non era il Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera o Repubblica, no? Questo che impensierisce molto, il vedere come gli editori, che in Italia non sono puri, ma gli editori non si preoccupano. Poi dopo arriva l'editore che fa lo sgambetto, De Benedetti, che aveva Repubblica, per fare lo sgambetto a Repubblica perché non è più d'accordo, che è un'altra cosa, va a aprire Domani. Apre Domani e allora apre un giornale invece che è già più interessante. Però non possiamo rimanere sui sgambetti, perché sennò... Quindi ci serve un benedetto giornale. E servirebbe anche quelle forze che si dicono progressiste e che hanno qualche soldino in più in cassa di noi che non ne abbiamo, li mettessero su questo tema, molto più che sulle comunicazioni elettorali dei Santini, che chi se ne frega alla fine, cioè chi è che vota perché ha visto un Santino? Io no. Se, non so, ci sono altre domande? Qualcuno voleva? Sì? Eccola. Un sacco di domande per te. Bene. Mi metto di qua così non do spoglio a nessuno. Ciao a tutti e tutte, io sono Riccardo. E, allora, io avrei due domande, non sono neanche domande, sono curiosità, non so bene. Allora, mi ha incuriosito una frase che hai detto all'inizio, sono arrivato 10 minuti in ritardo, quindi non era all'inizio, per me era all'inizio, e, in cui hai detto che a Genova gli sbirri in piazza erano italiani, ma la regia era internazionale. Questa è una cosa, secondo me, è molto interessante, nel senso che, vabbè, non so se puoi approfondire questo argomento tu. E poi l'altra cosa che volevo chiederti, che non so quanto sia banale o quanto sia complessissima come domanda, è com'è possibile che in questi 20 anni si sia così tanto persa la radicalità, che era quello che dicevi tu, tramite il, non so, il moderatismo, questo centrismo che è arrivato con Berlusconi, eccetera, eccetera. Ma da dov'è che è partito tutto e se effettivamente può essere che sia partito proprio dalla repressione che c'è stata a Genova? Quindi forse la domanda potrebbe essere quanto la repressione che c'è stata a Genova ha inciso su questo spostamento da una radicalità del movimento che c'era all'epoca verso un centrismo berlusconiano, come lo vogliamo chiamare. E, su questo tra l'altro poi in realtà ho dei dubbi, perché non mi ricordo in quale delle interviste che avevamo fatto a luglio c'era una delle persone che avevamo, uno delle persone che avevamo intervistato, che diceva che in realtà, andandosi a rileggere oggi il manifesto che era stato stilato a dove che era prima di Genova, c'era stata un'altra occasione, non mi ricordo più, a Göteborg o a Seattle, adesso non mi ricordo. Comunque, andandosi a leggere il manifesto che era uscito da quell'occasione lì, uno guardava e diceva: ma veramente ci hanno picchiato queste cose? Cioè, della serie, che quello che c'era scritto lì era come dire: boh, la base, va bene, ok, sono cose per niente radicali. Quindi dentro di me ho un po' questo dubbio, cioè tu dici che si è persa radicalità, d'altra parte però altre letture dicono che invece quello che allora era radicale oggi forse è soltanto per noi, per le persone normali, persone fuori dal giro del movimento, in realtà è ancora radicale, ma per noi non sono per niente cose radicali. Va bene, basta. Allora, partiamo da qua. Oggi quelle cose che allora erano radicali sono meno radicali, paradossalmente, perché se ci pensi, quante persone condividono oggi a parole il fatto che dobbiamo recuperare nei confronti del clima, dei cambiamenti climatici? Io ne conosco di tutte le età, in maniera trasversale, e di tutti i regimi, diciamo, economici. Cioè ormai c'è una consapevolezza del fatto che siamo in straritardo. E che quindi, siccome adesso iniziamo ad avere paura perché vediamo gli effetti, allora adesso siamo tutti più portati a... compreso, come si chiama quel politico, aspetta che adesso mi viene, no, c'è un politico che stava al Fondo Monetario Internazionale e adesso ai tempi di Genova, che adesso riconosce: ci sbagliavamo allora, effettivamente avete ragione, ok, avevamo ragione, però un sacco di botte ce l'avete date lo stesso, no? Gli stessi documenti del Fondo Monetario Internazionale nel corso dei 20 anni che si citavano sono andati man mano dando ragione a tutte le cose che si scriveva nel 2001 e anche prima. Le analisi che venivano fatte, la questione di trattare, come si tratta il debito, che era una grande questione, no? La questione di come trattare il debito, se cancellare il debito, non cancellare il debito. Quindi in realtà certe battaglie sembrano più vicine e molto più abbordabili. Non abbiamo neanche bisogno di convincere più nessuno sulla questione climatica. Abbiamo bisogno di convincere qualcuno su due cose. Uno su, ok, se siamo d'accordo, però come facciamo a raggiungere gli obiettivi? Perché in realtà siamo tutti d'accordo, però non siamo noi poi a farla sta cosa. Due, esce fuori una cosa che si chiama PNRR, che se l'avete letto è estremamente interessante, arriveranno un sacco di miliardi per fare un sacco di bei progetti, per la transizione ecologica. Poi dopo vai a vedere che i soldi li danno sempre i soliti, che fanno del gas che non è per niente ecologico, ma che viene fatto con le fossili. Tutto il lavoro che fa Recommon.org, guardatelo, bellissimo. Allora, e già lì dici, Eni per esempio, no? Eni ti fa delle pagine sui giornali stupende dove ti dice: abbiamo scoperto l'alga che mangia la CO2. Sì, peccato che tu, però, quando vai a vedere cosa fa Eni, è una delle principali fonti di utilizzo delle fossili e anche di grandi sospetti rispetto anche alle politiche che mette in atto. Insomma, un po' uno Stato nello Stato. Quindi è vero che certe cose di allora sembravano normali e sembrano ancora normali oggi. Il problema è sempre come riusciamo a farle attuare, secondo me. Cioè, il problema è di sistema. Il problema del sistema. Se noi diciamo il nuovo premio Nobel Parisi, giusto? Si chiama così? Sì. Che ha detto delle cose semplici. Ha detto, ma il problema, signori, qua è il consumo. Cioè, se non abbattiamo il consumo non andiamo da nessuna parte. E come si giustifica allora ogni volta che io vado al supermercato e vedo che hanno inventato un nuovo packaging per vendermi la singola fetta di pera dentro al singolo sacchettino di plastica? Cioè, non si concilia sta roba. Se lo sfuso è il futuro, perché ci evita di... Facciamo lo sfuso per legge. O no? Forse sono troppo oltranzista su queste cose. Cioè, perché se no viene fuori il discorso che uno dice, come ho sentito fare certi accenni a volte fra non amici ma conoscenti, dicono, beh, ci vorrebbe uno che impone queste cose. Capito? Ma qua andiamo nella deriva autoritaria, dove ci vuole uno che impone le cose che sono logiche. E questo discorso non torna neanche più. Però è impressionante come si arrivino a determinate cose. Allora, Coca-Cola ha deciso che non mette più i sacchetti di plastica, ormai da mesi avete visto, ma mette i cartoni che riuniscono le quattro lattine. Solo con quello abbiamo risparmiato quanti milioni di chili di plastica, un sacco. Però perché ci è arrivata nel 2020? La responsabile degli ESG di Unicredit, che ho sentito parlare a un convegno di Recommon un mese fa, ti dice delle cose assolutamente condivisibili. Rivedremo la policy sul carbone, rivedremo. Però tu l'ascolti e poi dici, ok, ma perché me le dici nel 2021 queste cose? Quando abbiamo scritti, facevamo i temi, adesso non perdonare che sono vecchio, ma facevamo i temi su sta cosa. Quindi vuol dire che 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, Ansel Adams, che era un fotografo, 50 anni fa scrive delle pagine incredibili dicendo, ragazzi, ma siete matti, state andando a sbattere contro un muro sulla questione del rapporto con la natura. E non solo lui, ovviamente, no, Langer, via dicendo. Per cui io quello che temo è questa cosa, cioè il fatto che le ragioni siano buone, siano riconosciute. Addirittura questa volta ci abbiamo anche la gente che dice, quella che non è, diciamo, motivata politicamente, che dice no, è giusto, ma poi non si riesce a verificare questa cosa, perché il cambio di modello. E il modello non lo cambia Draghi, perché Draghi fa parte del modello. Quindi potremmo avere soltanto qualche cosa che va da qualche parte, va scardinato secondo me questa cosa. E non è questione di lotta armata o lotta, proprio è una questione di capire come fare a prendere il potere, in questo caso, cioè il potere di essere decisionali, ma in base a delle nuove idee. Oggi abbiamo un paese che ha un governo tecnico, retto da un tecnico, che prende scelte politiche, ma mi sembra che siamo proprio arrivati al fondo del barile, no? Nel senso che, e tutti sono lì che si stanno dicendo, il discorso di ieri, no? Era tentato il PD di fare il colpo, mette Draghi al Quirinale, fa le elezioni così le vince, no, il nazionale è un'altra storia, magari no, teniamo Draghi fino al 2023. Ragazzi, ma è un tecnico, io sono stufo di essere governati da tecnici, e prima Monti e poi Draghi. Deve vincere la destra, vinca la destra. Gli faremo l'opposizione alla destra. Forse rinasce un conflitto interessante sulla destra, non lo so. L'altra cosa invece, la questione atlantica, sì, perché a Genova per la prima volta vengono schierati i Patriot, quindi le batterie antimissili vengono messe al G8 per la prima volta, che... In rilettura è particolarmente interessante, perché poi a settembre, senza fare i complottisti, non voglio dire che, però a settembre del 2001 ci sono le torri. Quindi in realtà loro avevano anche pensato all'eventualità di un attacco di diverso, non so, mettere dei missili, antimissili, è una cosa fuori dal mondo per me, però l'hanno fatto. E noi avevamo incontrato con Roberto Festa, lui aveva incontrato nelle nostre gite per vedere appunto cosa c'era in giro, diversi esponenti di, diciamo così, di servizi stranieri anche, che si trovavano poi la notte, la sera, nei bar, nelle cose, eccetera. Perché ovviamente ognuno andava a seguire il suo spezzone. Questo è abbastanza normale, cioè questo è da sempre, che tutte le manifestazioni sono infiltrate sicuramente e accompagnate, attenzionate, direbbero i carabinieri con i loro verbali. E questo è abbastanza normale, però rientra nello schema atlantico sicuramente, perché la decisione di prendere a cazzotto il movimento è proprio perché il movimento era talmente forte da riuscire a dire che c'erano delle cose normali e belle da fare, che andavano a sconvolgere quello che era il modello, e siamo sempre lì. Era il modello che doveva essere salvato, e infatti il modello è stato salvato. E infatti, scusate se la taglio giù un po' con l'accetta, tutti gli economisti, anche di sinistra, che sono arrivati, sinistra virgolette, poi nei governi progressisti, hanno dato ricette non particolarmente differenti da quelle del centrodestra. Non particolarmente differenti. Non abbiamo avuto un punto di svolta. E infatti Podemos, poverino, che all'inizio aveva, non mi ricordo più il nome di questo economista che aveva fatto il programma, Varoufakis è greco, no, Podemos aveva questo economista, che era un signore economista piuttosto canuto, che aveva fatto un programma economico che ricordava abbastanza l'Unione Sovietica, no, adesso scherzo, però voglio dire molto, molto, molto preciso, molto, molto duro, e poi è stato ovviamente man mano modellato, addolcito, perché poi entri dentro una questione, quando vai al potere entri dentro la questione del compromesso, e questo è comprensibile. Però quello che ci serve a noi oggi è una svolta. L'atlantismo era quella roba lì. L'atlantismo era dire: voi di qua non ne uscite, anzi dobbiamo far vedere che voi proprio prendete un sacco di mazzate, ma ne prendete proprio tante. E infatti ci sono riusciti, perché molte persone, come diceva, non mi ricordo, Michela, non hanno più parlato di Genova. Qualcuno ha fatto fatica a tornare a Genova quando c'è l'elicottero. Sapete cosa avevano detto tutti? L'elicottero dà fastidio. Io ho dormito fuori casa a Milano per 5 giorni perché avevo paura, perché eri spaventato comunque, cioè, tanta violenza hai visto in quei giorni che dici: ma caspita, può toccare proprio davvero a tutti sta cosa, perché ti senti controllato, perché capisci che i carabinieri hanno caserme dappertutto, c'è la questione degli archivi, eccetera eccetera, cioè, ti senti in un paese a sovranità dove tu non sei proprio libero completamente. Poi le cose passano, tutto va molto meglio, però ti rimane quella cosa addosso, dove, per questo ti dico, il mio interesse per le nuove generazioni è questo, che quella cosa addosso non c'è più tanto, se non. E per chiudere, nota polemica, e vai, dai, finalmente, sulle realtà autogestite. No, scherzo, però un po' sì, nel senso che il grande, io mi ricordo di aver fatto un lavoro sui centri sociali, ma tanti anni fa, dove già si diceva perché si era di fronte a un declino della struttura del centro sociale. La mia critica è, alla fine, quella di dire: questi posti sono importanti proprio perché sono avanguardia di queste cose. Per cui quello che non ho capito, sinceramente, per esempio della realtà, delle varie realtà milanesi, è dove non si trova il punto d'incontro di piattaforma. Questa cosa qua io non l'ho mai capita. Tenete conto che io non sono mai stato un frequentatore assiduo di un centro, ma ho conosciuto per questo. Laddove invece a me il discorso affascina, perché, non mi guardare male, perché trovo che ci sia esattamente l'energia necessaria dentro per muovere, per aggruppare, per raggruppare, per interessare. C'è quella funzione che è anche pedagogica, che ha sempre avuto, secondo me, anche il centro. Io parlo del Leoncavallo di tantissimi anni fa, tanti, ma proprio, e mi ricordo le manifestazioni di tanti anni fa, quando a Milano appunto Leoncavallo chiamava e arrivavano tutti i centri sociali a sfilare. Era una forza, che piacesse o meno, una forza molto presente, era un attore politico della città. Oggi, secondo me, parliamo dei centri solo quando vengono sgomberati, ma si fa fatica a pensare che siano un attore politico decisivo della città. Leoncavallo era un attore politico che si imponeva, secondo me, e questo, secondo me, è parte anche di un problema territoriale. Poi chiudo davvero: abbiamo invece un sacco di realtà interessantissime, belle, che sono frutto di una mediazione politica, che fanno altro. Fanno food, fanno ricreazione, che è bellissimo, però fa parte di quel tessuto del quartiere che si sveglia, fa associazionismo, ma che non mi propone una chiave di conflitto, mi propone una chiave di benessere del quartiere e di vivacità di idee, benissimo, di dibattito, fantastico, ma non può avere, secondo me, quell'aspetto pedagogico che invece può avere il fatto di trovarti dentro una realtà che è identitaria. Vabbè, vado io perché sono qua, però ci sono tutte le mie compagne e i miei compagni del collettivo, quindi in caso se dico delle cose, delle castronerie, perché sono anche in radio, quindi non dico le parolacce, e no, vabbè, io, e possono assolutamente intervenire. E infatti anche prima sul discorso, sulla risposta, insomma il confronto che hai avuto con Michela sul che cosa ci siamo persi, non ero completamente d'accordo. Io, ad esempio, in questo momento parlo come Giulia, io mi sento un po' figlia di Genova. Io per età ero troppo piccola e figurati assolutamente dopo Genova, perché mia sorella era là, non ho potuto mettere piede nei centri sociali per parecchi anni. Ho dovuto aspettare la mia indipendenza economica e quindi uscita di casa per farlo. E, io credo che su quella generazione lì che era Genova, e magari anche chi era limitrofo ma Genova non c'è potuto andare, abbia influito la repressione e la violenza, perché anche a livello internazionale è stato scelto di arrivare a quell'apice, e quindi sulle persone ha influito tantissimo. Ci siamo persi un po' quel tipo di asticella del conflitto, noi la chiamiamo così, alziamo l'asticella del conflitto, ogni tanto ce lo diciamo. Abbiamo, cioè, si è attuato poi una politica della sicurezza, del controllo veramente estremamente forte, e quindi credo che questa cosa abbia influito sul movimento, sul fare militanza anche a livello singolo, ma proprio anche in funzione invece di quello che dicevi adesso, credo che i centri sociali, collettivi politici, che per forza non devono avere uno spazio fisico, abbiano modificato tanto rispetto anche agli ultimi anni 90, gli anni 90, e quindi un esempio è Leoncavallo, il loro modo di fare politica e attuare conflitto. Ed è una cosa che riprende anche uno degli ultimi interventi, credo proprio lui di Recommon, ed è il creare delle radici nel territorio in cui si è, magari fare azioni meno eclatanti, anche più silenziose, ma più legate al mutualismo, più legate al fare rete, all'andare contro l'individualismo, che invece secondo me ultimamente ha raggiunto degli apici veramente terribili. E è proprio cambiata l'atteggiamento del movimento, non è più tanto lo scontro magari frontale o diretto con le istituzioni o lo strumento, le forze di polizia, ma è più l'incontro fra le persone, magari a livelli un po' più minimi, un po' più piccoli. Noi qua a ZAM abbiamo fatto una scelta anni fa di metterci in questa periferia e cercare di insediarci qua e andare incontro alle persone che qua l'abitano senza fare troppo clamore, e infatti adesso l'ho detto, non ci stanno calcolando granché, però è proprio un tipo di conflitto, a mio parere. Poi è ovvio, quello più eclatante a volte serve anche a sfogare quel tipo di furia che hai dentro, che è strumentale e utile a volte. In questo momento credo per scardinare il modello, il sistema, sia un po' questo fare rete fra le persone, andarsi incontro e creare un conflitto più quotidiano, più a livello di vita quotidiana delle persone. Adesso non so se mi sono spiegata, mi sono un po' emozionata perché quando parli queste cose, però io non, cioè, mi sento figlia di quel popolo, perché ho recepito i contenuti, i messaggi, e li ho rielaborati in base alla mia quotidianità, alla realtà in cui vivo adesso, che è profondamente diversa. E credo anche, ne parlavo con Chicco Elia, ma l'ho letto anche nel tuo libro, in questi 20 anni sono successe anche cose a livello internazionale, il cambiamento di movimenti a livello internazionale, ma anche le varie guerre oltre, che hanno modificato tanto quindi il modo di mettersi in rete e cercare l'altro. Mi veniva da dire questo, non so se... Non mi hai risposto sulla piattaforma poi, però... L'unica cosa, ecco. Quanto tempo hai? No, una cosa breve per... No, su questo invece mi viene da dire che siamo sempre un po' reduci figli di non soltanto Genova, ma tutto quello che arriva prima, e ci sono delle cose che succedono ciclicamente. A distanza di anni, fare queste interviste mi ha aperto gli occhi un'altra volta ulteriormente, pur avendole vissute sulla mia pelle negli ultimi 10 anni, di quanto a livello di movimento, adesso ti sto parlando, quindi non associazioni, non cose altre, quanto siamo bravi e brave e capaci a ripetere gli stessi errori. Quindi possiamo arrivarci magari un giorno, la vedo ancora un po' complicata. Ma secondo me su questa cosa della piattaforma mi viene da pensare anche che uno dei motivi, poi posso sbagliarmi dal mio punto di vista, e anche il come si fa politica all'interno del movimento. Cioè, anche banalmente a Milano qui abbiamo centri sociali che puntano sul mega evento, enorme corteo una volta, due volte l'anno, altri centri sociali che invece puntano sul lavoro quotidiano, con, come diceva Giulia, con le realtà territoriali, sul creare rete, sul creare, dal mio punto di vista, anche un'alternativa reale, cioè esistente, al sistema, che è quello che dicevi tu, capitalista, statale, tutto quello che vogliamo. Quindi secondo me uno dei motivi per cui non si crea questa piattaforma è anche proprio la modalità con cui si lavora, che mi viene da pensare, nella mia ignoranza, è un po' come quando al G8 c'erano gli anarchici e i Lilliput dall'altra parte, ok, che magari dicevano tutte, avevano tutti lo stesso scopo, ma evidentemente i metodi erano estremamente diversi e non si mettevano insieme, ci sta. Certo. Legittimi entrambi i metodi. È verissimo, Riccardo. Sì. Ma la questione lì era che la divisione delle piazze tematiche era stata decisa esattamente per questo, e cioè Tolemaide è delle tutte bianche, perché hanno deciso di attuare una forma di difesa dentro social forum. Non è che c'erano fuori, certo, certo, non è che c'erano fuori, però voglio dire, dentro la diversità della reazione c'era chi aveva fatto la scuola per farsi trascinare in atto di non violenza, chi si è dipinto le mani di bianco, che... E quindi la cosa più intelligente però lì è stato dire: bene, facciamo piazze diverse, perché non riuscivi a arrivare a una quadra, perché è difficile a volte arrivare, cioè è anche velleitario, direi, no? Arrivare a pensare di creare una questione omogenea, perché è giusto rispettare poi ciascuno le proprie modalità di conflittualità, di conflitto. Se all'epoca c'erano piazze diverse, microfono. Dicevo, se all'epoca c'erano piazze diverse e continuano le paragone, oggi sono centri sociali diversi, ho capito? Ognuno che porta avanti le sue modalità. Sì, però io te lo dicevo proprio per quello, piazze diverse nella stessa città. E beh, quello è un concetto che mi stuzzica parecchio. Sì, volevo aggiungere proprio forse per proprio nelle interviste, alcuni ci hanno detto, ma in realtà noi non volevamo neanche andarci a Genova. Cioè, lo dicevano, cioè, perché, per non inseguire la logica del grande evento. Dunque, ci sta non portare 10.000 persone in piazza, perché magari non interessa fare quel tipo di conflitto. E alcuni ci hanno proprio detto, effettivamente, serviva andare tutti quanti lì? Cioè, questa è una bella domanda, secondo me. Io non ho una risposta, cioè, non credo che nessuno qua abbia una risposta, ma è servito? Sì, no, questa è la domanda che viene sempre fuori, ma perché invece di andare a Genova non siete andati tutti, che ne so io, al mare, avete fatto un happening collettivo con un bel concerto di Manu Chao, 4 canne e via, ciao. Che non è sbagliata come osservazione, se ci pensi non è sbagliata, cioè voi là state chiusi nel vostro palazzo ducale e noi invece, però è anche vero che molti dei soggetti che erano nel Genova Social Forum rivendicavano, io penso anche abbastanza in maniera interessante, il fatto di dire no, perché lo scontro deve avvenire laddove c'è, diciamo, il nemico, ma comunque sia sì il nemico, no? Però nel senso che io, tu mi stai imponendo una cosa e io ti dico che un piedino dentro lo metto, che un po' era il discorso poi che doveva accadere, no? Come sappiamo, cioè doveva esserci questa cosa rappresentativa di mettere un piede nella zona rossa e ciao. Questa cosa è stata utilizzata. Quindi sì, è vero, c'è questa domanda che ha un senso profondo, cioè perché no? Noi a fare un happening dove ci divertiamo la mattina e sera e voi state lì a decidere le finte sorti del mondo che tanto non sono quelle. Però è vero anche che la confrontazione, il punto di E come gli anniversari, lo spotlight era su Genova, e quindi è su Genova che sono arrivati i turchi, i greci, eccetera, eccetera. Non so se sarebbero arrivati anche su Palermo, per dire. Non credo. Basta. No, no, è che vi annoio. No, io anzi credo esattamente il contrario. Poi non so quanto ancora può reggere l'attenzione. Non so se qualcun altro voleva aggiungere qualcosina. No. Allora. Guglielmo, i podcast. Ecco, mi sono dimenticato di dire i podcast. Oltre alla radio ci sono i podcast. Ecco, i podcast sono uno strumento che in questo momento vengono molto fruiti da una popolazione interessante, perché non sono tanto i vecchioni, anzi, ma soprattutto quelli che vanno dai 40 in giù. Molto più delle dirette, sicuro, perché la diretta è lunga, però, però è vero che il podcast è qualcosa che crea comunità, e quindi anche questo io consiglio. Va bene. Grazie mille, Angelo. Grazie a voi, è stato pazienza, ma che no, è stato tutto molto, molto bello, interessante. Sono molto felice e grazie di essere venuto qua e di aver detto che è un posto accogliente. Molto. Ah, è vero. Devo cantare? No. Ah, può anche cantare dal se vivo. Canto. No, scherzo, sto scherzando. No, di solito facevamo questa cosa qua di consigliare una canzone che mandiamo in radio e hai qualcosa da. Ti viene in mente una così. Canzone a tema? Una no, canzone. Quello... La canzone che ascoltavi a Genova. Ah, quella no, la canzone. Io a Genova non ascoltavo musica. Allora. No. No, io vi consiglierei una canzone. Sì, a me piacciono molto, come sapete, i baschi. Come sapete, voi non lo sapete, ma a me piacciono molto i baschi perché li ho seguiti per tanti anni. E quindi ti direi Ipocrisia e Stop, se la trovi. Ed è. Madonna, il gruppo di Fermi Muguruza, come si chiamavano? Adesso ti viene. Ipocrisiari e Stop. Si chiamavano. Aspetta che te lo dico. Ma sono baschi. Sono baschissimi, non baschi. Orso, chiediamo l'aiuto di Orso. Orso, Ipocrisiari e Stop. Chi la canta? Inegu Gorriak. No. Ringraziamo anche chi ci sta ascoltando da casa, dal cellulare, dai treni, da ovunque, e rimanete sempre in ascolto della nostra fantastica radio. Siamo bravissime e bravissimi. Grazie, ciao. Ciao.